Blu Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora presentiamo gli Old Rock City Orchestra. Innanzitutto ciao Maurizio. Buonasera a Vannuccio. Buonasera, buonasera a tutti. E buonasera a una voce straordinaria, Cinzia Catalucci. Buonasera. Tastiera e voce. Giacomo Cocchiara al basso. Buonasera. È un po' lontano, ma un po' lontano. E Michele Capriolo alla batteria. Buonasera. E poi c'è un altro. E poi c'è un altro. Raffaele. Sì, ciao. Ciao Raffaele, ciao. Raffaele Spanetta. Esatto. Bene. Che è un po' l'anima del gruppo. Esattamente l'anima del gruppo. Come composizione, vogliamo dire. Fisicamente l'anima del gruppo è il batterista. Beh, tutt'altra cosa, no? Un'altra cosa. Però come composizione Raffaele è proprio l'anima del gruppo. Caro Vannuccio, una cosa che ti avevo chiesto prima di iniziare il programma. Come li hai conosciuti gli Old Rock City Orchestra? Tu mi hai detto candidamente hanno mandato un CD. Esatto. È la cosa più semplice del mondo. Hanno mandato un CD, che ovviamente mi è piaciuto praticamente. Anche a noi è piaciuto. mi è piaciuto come l'avevano fatto, infatti confermeranno anche loro che io ho chiesto veramente delle minime modifiche a quello che avevano già registrato. Al suono che avevano creato. Esatto. Perché mi sembrava bello come l'avevano fatto. E in effetti è quello che sentiremo anche stasera. Certamente, dobbiamo sottolineare che l'anno scorso, un anno e mezzo fa, Michele, all'incirca, cosa sì, dici? Sì. Ci siamo conosciuti però solo via telefono. Telefonicamente. Stasera ci conosciamo dal vivo, è una cosa molto bella, molto significativa, perché stasera i ragazzi hanno portato gli strumenti. Ecco, la storia, Michele, com'è nata l'idea di fare un gruppo... Raffaele, no Michele, sì, scusa, sì, Raffaele, è uguale. Com'è nato l'idea di fare un gruppo, di fare questo gruppo che vero Vannuccio, coniuga il rock, il prog, il blues e qualcosa d'altro? Ma all'inizio noi con Cinzia suonavamo anche in un'altra band, poi però abbiamo deciso di esprimere un po' la nostra musica, insomma, e ci siamo portati dietro un po' le influenze che avevamo, quindi il prog, la musica psichedelica, faceva un po' alla Chris Leak, perché esatto. Cinzia echeggia qualche volta Vannuccio, cosa dice? Echeggia certe cose di Jefferson. Sicuramente, ma tutto il sound che loro mettono, e dopo lo sentiremo meglio, perché anche esce comunque anche in acustico, che è una cosa un po' particolare. La psichedelia ovviamente voleva grosse distorsioni e grossi interventi elettronici, loro riescono a farlo molto bene anche in acustico. Effettivamente la psichedelia traspare più di tutto. Tra l'altro è una psichedelia della West Coast, quindi è una psichedelia. Bella psichedelia. Non la psichedelia pseudo finta che abbiamo avuto in Europa. È un po', beh, insomma, sì, posso essere d'accordo. Sì, per noi è un complimento. È un complimento. No, sì, ecco, se vuoi, mettiamola così. Dimmi. Una cosa erano i Jefferson Airplane, una cosa erano gli Hawkwind. Ecco, lo so, sì, esatto. Possiamo essere d'accordo. Quindi, Raffaele, l'idea è cominciata, si è balenata, si è sviluppata. Te e Cinzia avete detto, portiamo avanti un progetto. Sì, portiamo avanti questo progetto, proviamo, insomma, ecco, a buttare giù delle idee, delle musiche che avevamo. Abbiamo poi chiamato Giacomo e Michele, che hanno completato la band. Sì, perché insomma, una band senza il basso e la batteria, esatto. Caro Vannuccio, non è una band. E Michele ha portato un po' di metal nella band, no? Un po' di heavy sound, sì, insomma, in fisicamente qualche modo. Anche quello, esatto. Ha portato. Non solo un batterista deve metal e fisicamente a posto. Beh, insomma, deve tenere duro un paio d'ore. Esatto, però ha dimostrato versatilità, quindi insomma abbiamo completato questo sound, sicuramente degli echi psichedelici, musica progressiva, insomma, e abbiamo provato a fare questa nostra musica, insomma. Esatto, avete provato a fare questa nostra musica e avete trovato l'etichetta di Vannuccio, sì, e di Nino Destra, che è nascosto, sì, che sì, è nascosto, ma fa parte anche lui della famiglia. Eccolo. Vero Vannuccio? E tu sei stato pienamente soddisfatto? Ma sai, la cosa come dico spesso quando vengo qui in radio, Maurizio, la cosa difficile è trovare una serie di belle canzoni. Voglio dire, gente che sa suonare, gente che sa interpretare, gente che sa fare della musica, ce ne sono tantissimi. Il problema è poi scegliere fra tutto questo qualcosa che in qualche maniera spicchi, almeno dal mio punto di vista, ovviamente. Ecco, loro ci sono riusciti perché loro hanno presentato un disco con 9 canzoni, tutte belle. cosa difficile al giorno d'oggi. E tra l'altro anche diverse una dall'altra. E quello perché, è importante. Esatto, perché è facilissimo fare un CD di 50 minuti che parte e finisce allo stesso modo. Ecco. Cosa che succede spesso, soprattutto con le nuove leve del prog, eccetera. Boh, capita. Capita molto spesso. Capita. Loro sono riusciti a fare qualcosa di diverso e questa diversità, tra virgolette, valeva la pena di metterla in luce. E chiaramente, cari ascoltatori, questa diversità l'abbiamo sentita, l'abbiamo capita un anno e mezzo fa quando abbiamo ascoltato il CD da studio, voi eravate ad Orvieto, esatto, e noi sì. Eravamo qui in Italia, a Padova, praticamente. Sì, sì. E abbiamo deciso, dopo, anche pensando come annuncio, trovare il sistema per approdare direttamente in studio e finalmente stasera, ci 9 ottobre, ci siete riusciti. È una cosa molto bella, molto positiva. Beh, sai, loro hanno avuto, è stata un'estate on the road, dopo ce la racconteranno molto meglio la loro estate, quindi forse valeva la pena di fare questi 400 chilometri per finire un attimino la stagione autunnale, diciamo, e aprire qualcosa di nuovo, come ci racconteranno loro. Dall'Umbria con furore. Esatto. Allora, facciamo una cosa che di solito facciamo noi qui dentro. Apriamo la finestra e presentiamo un pezzo da CD stavolta e poi cominciamo il discorso del live. Caro Gil, che pezzo abbiamo scelto? La traccia numero 8, Tonight With You. Ecco, adesso giusto, la sentiamo e poi la ne discutiamo assieme, con Vanuccio compreso. Vanuccio è praticamente il condottiero del programma stasera, assolutamente. Benissimo. Thank you. Blu Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Volevo ricordare, carissimi ascoltatori, che chi volesse anche chiacchierare via Facebook con gli Old Rock City Orchestra può farlo collegandosi alla pagina Facebook di Blu Radio Veneto Rock Wave. Leggerò i vostri messaggi in diretta al gruppo. Maurizio. Bene, caro Vannuccio, ci siamo proprio messi dentro, full immersion nella musica di un certo tipo. Cosa dici? Questo flauto, dicevi giustamente Raffaele che flauto lo suonava una ragazza di Roma. Sì, Chiara Dragoni di Orvieto. Di Orvieto, non di Roma. Da dove veniamo noi, questa ragazza bravissima, insomma, un talento nostrano. Guarda, tra l'altro abbiamo forse iniziato con la canzone più particolare del loro disco. Primo perché canta Raffaele, mentre tutti gli altri brani sono cantati da Cinzia. Esatto. Quindi già cominciamo in una maniera un po' strana. Abbiamo già escluso questa parte della musica. Dopodiché è l'unica canzone forse che si rifà al folk. Sì, esattamente. Col flauto, il flauto dà un certo colorazione. Con questo flauto, anche con questo andamento. È un reel praticamente, certo, una danza fatta sul flauto. E proprio per questo, tra l'altro, forse sarà anche il caso di dire che avremo, a proposito di folk, una persona molto particolare che ci introdurrà proprio il discorso della voce femminile invece nel rock. Allora, vediamo un attimo se riescono a recepire il collegamento. L'okay. Sì, mi sembra di sì. Comunque, Raffaele, cosa in qualche maniera ha significato per te avere comunque un brano cantato da te nel disco? Allora, io all'inizio neanche volevo cantarlo, diciamo la verità, nel senso che poteva essere una distrazione all'interno del disco, invece poi abbiamo in qualche modo optato per mettere una voce maschile che poteva anzi arricchire, ecco, e ho tentato insomma di dare un colore che non pensavo, insomma, all'inizio non ero così sicuro, poi l'ho fatta mia, diciamo, in qualche modo la canzone, e sono molto contento di averla cantata. Anche il finale con la chitarra l'hai fatta tua, sì. Questo loop che continuava all'inverosimile. Sì, è un loop, è una specie di cavalcata, no, che va all'infinito in qualche modo, e sì, abbiamo fatto questo finale un po' Pink Floydiano, sì, no? A tratti, da molto folk. da jam session, sì, esatto, per dare un po', ecco, il significato di questo continuum, diciamo, no, come dicevano i latini, il significato del continuum. Però esattamente, sì, abbiamo al microfono, chi abbiamo al microfono? Beh, abbiamo al telefono, una persona assolutamente straordinaria, abbiamo Jenny Sorrenti. Una domanda: tu sei stata veramente una delle voci che hanno segnato la musica prog e il folk prog italiano. Come ti sembra di essere, che fosse il momento negli anni 70 dove una voce femminile a una voce femminile veniva data una così grande importanza? Beh, l'importanza diciamo che me la sono conquistata, perché quando io ho iniziato a suonare all'età di 16 anni, diciamo che sono stata la prima, come dire, la prima donna vocalist di un gruppo rock e la prima cantautrice, quindi ero considerata una sorta di indemoniata, insomma, sì. insomma un personaggio strano, diverso, e quindi poi piano piano me la sono conquistata io questa importanza, perché ho cominciato a fare concerti, a farmi apprezzare anche dalla critica, dalla gente, e quindi poi appunto, come hai detto tu, mi sento stranissima, scusa, parlo strano perché mi sento questo reverbero, cioè come una ripetizione. No, non preoccupare, noi sentiamo benissimo però. Ah, vabbè. E quindi insomma ero considerata strana, la donna comunque era messa da parte. Le donne allora erano le donne dei festival dei vari Sanremo, a Napoli poi c'era la canzone napoletana, quindi c'era la canzone classica, insomma una donna che faceva rock era considerata, ti ripeto, un po' strana, insomma. Però... poi piano piano attraverso appunto questo movimento che abbiamo creato a Napoli, io, Lino Veretti, Regio Sanna e tanti altri, mio fratello eccetera, la donna come vocalist sta incominciando a assumere importanza. Poi io nel gruppo componevo sia testi sia musica, quindi facevo un po' tutto io, quindi so che non serve ricordarlo, ma citiamo i Saint Just come il gruppo di Jenny Sorrenti, ovviamente. Sì, perché il gruppo l'ho fondato io, quindi scrivendo poi i brani, i testi, era impossibile non considerarmi, far finta che non esistevo, insomma, E anche sul palco lo riempivi benissimo, Jenny, non c'è nessun dubbio da questo punto di vista, e tra l'altro continui a farlo, hai continuato a fare degli splendidi album. Sì, fino ad oggi, perché poi dopo i primi due dischi ho cominciato a intraprendere questo percorso solista, dove poi ho unito il Mediterraneo, diciamo, con la musica del Nord Europa, insomma, quindi una musica contaminata. Ho continuato a fare poi un certo tipo di prog nell'etnia, e poi nel 2012, come ben saprai, ho ripreso proprio a cantare rock, registrando questo disco Prog Explosion, che è uscito solo in vinile. Esatto, sempre a nome di Saint Just. Erano tornati. Saint Just Again. Ecco. Cioè, ancora Saint Just. Che è una cosa bellissima. Allora, Jenny, noi volevamo ovviamente ringraziarti per questo intervento, perché una voce come la tua è bella anche al telefono. Ah, esatto. Valeva veramente la pena. Radiofonica. È molto radiofonica. Anche se si sente questo accento napolitano, no, from Naples, forse napolitano, che a me piace poi. Beh, d'altronde è una tua caratteristica, non possiamo mica toglierla. Cavolo, io sono orgogliosa di essere napoletana. E ci mancherebbe. E tra l'altro volevo che fossi tu ad annunciare un evento che andrà eseguito il 17 di ottobre, quindi fra qualche giorno. Sì, è un concerto dedicato a Marcello Vento, a questo grandissimo musicista che, oltre ad essere mio marito, ha collaborato, perché purtroppo appunto non c'è più, ha collaborato con praticamente tre dischi miei ha fatto, quindi insomma un personaggio straordinario, oltre che ha avuto una storia incredibile, diciamo, con uno dei primi gruppi progressive romani, Albero Motore, poi ha fatto parte del Canzoniere del Lazio, e lui era un grandissimo musicista, perché ogni genere che toccava lo rinnovava, gli dava, diciamo, un'innovazione a livello ritmico, perché era un grande batterista, insomma, anche percussionista, ma soprattutto batterista. Lui diceva sempre: io sono un batterista rock. E quindi ho voluto organizzare questa cosa per riunire tutti gli amici e i musicisti che hanno suonato con lui, quindi appunto avrei visto la scaletta, a cominciare dall'Albero Motore, poi Clara Murtas del Canzoniere, Lino Meretti, lo stesso Alan che ha suonato con Marcello, io, Francesco Di Giacomo, che è stato un amico proprio suo, diciamo, d'infanzia, insomma, e tantissimi amici. Quindi insomma è un dovere ricordare Marcello, perché veramente è stato un grandissimo batterista. Certo. Uno allora... che ha dato alla ritmica un senso artistico, un senso di arrangiamenti, secondo me è stato un genio proprio, oltre a essere un grandissimo artista in generale, perché lui ha fatto anche l'artista di strada, ha fatto teatro, ha costruito i suoi strumenti da solo, quindi insomma un artista nel senso completo della parola. Benissimo, allora noi fa piacere anche a noi ricordarlo, e il 17 di ottobre, quindi questo concerto a Roma, dove si svolgerà, Jenny? Si farà la casa del jazz in un piccolo auditorium e appunto ricordo che sono pochi, cioè sono 150 posti e purtroppo chi verrà, perché verranno anche da fuori, verranno anche da Napoli, verranno anche dalla Puglia e spero che riusciranno a entrare tutti, insomma, perché è stato un personaggio che è stato molto amato, diciamo, sia umanamente che musicalmente da parecchi, insomma. Sicuramente. Jenny, noi ti ringraziamo. Se vuoi salutare, se vuoi salutare i nostri ragazzi che sono qua e che ci presenteranno esattamente un po', come posso dire, un po' della tua storia, nel senso che da adesso cominceranno tutte le canzoni che eseguiranno dal vivo con una voce femminile. Sì, io infatti mi sono informata, perché non mi piace parlare di personaggi che poi non conosco, e sono andata a vedere un po' e a sentire un po' la musica che fanno. E sì, l'ho trovata interessante la cantante, brava a portare avanti un discorso diverso, con coraggio, vai avanti, questo volevo dire a lei, insomma, perché è difficile, però mi sembra che ci abbia una bella personalità, come anche tutti gli altri, fanno una musica coraggiosa. Del resto i Rock Progressi è una musica coraggiosa, perché unisce vari generi, ho visto che in loro c'è anche molto di classico, oltre che di jazz, mi piace, una bella fusione di vari generi con una bella voce. Beh, grazie Jenny, io ti sto ascoltando, per me è un vero piacere, è un vero piacere sentirlo dire, insomma, da un artista come te, quindi ti ringrazio a nome di tutta la band. Figurati, vai avanti e guarda che è difficile, però tieni duro perché la donna è forte, poi mi sembra che tu abbia una bella forza, insomma. Ci proviamo. Grazie mille Jenny per il tuo intervento e grazie ovviamente per la musica che ci hai sempre dato. Grazie a voi, ciao, buona serata. Ciao. Eccoci qua, adesso abbiamo ripreso Vannuccio Zannella, che ribadiamo è stato il gancio, è il nostro ospite stasera assieme a Nino Destra, che è nascosto. Vannuccio Zannella è stato il gancio, ha voluto fortissimamente voi stasera e lo ringraziamo già a priori. Lo ringraziamo sempre. Esattamente. Vogliamo dire anche velocemente, perché magari non tutti conoscono chi è, cosa fa Vannuccio. È un discografico, possiamo dire questo, Vannuccio? Non proprio. No. È uno scopritore di talenti. Va benissimo. Va bene così. Va bene così. In ogni caso. Bene, abbiamo sentito l'intervista a Jenny Sorrenti. Io ero molto emozionato perché erano anni che tentavo di intervistare Jenny Sorrenti. Il gancio di Vannuccio è stato velocissimo ed ha spiegato che cos'era la donna musicalmente a quel tempo nel rock. Con molta difficoltà mi è riuscita a sfondare. E come ha sfondato bene? Musicista straordinaria. Cosa dici, Cinzia? Sei stata emozionata anche te a sentire le parole di Jenny? Certamente, insomma, un artista di questo livello, di questa esperienza, soprattutto che, ecco, è riuscita ad imporsi nonostante tutto, esatto, si è imposta, esatto, alla grande, quindi mi sprona ancora di più, insomma, a mettercela tutta. Adesso siamo pronti, vero? Cosa dici? Sì, beh, dobbiamo suonare adesso, dobbiamo assolutamente suonare, caro batterista. Che cosa ci lo possiamo chiedere a Raffaele, anche al batterista, ma Raffaele è più vicino al microfono. Cosa ci proponi adesso? Allora, se gli altri sono d'accordo, facciamo un brano dal titolo UFO, tratto dall'album, insomma, Once Upon a Time, il nostro album, e vi proponiamo questa versione acustica, assolutamente molto acustica, insomma, esattamente, ecco. Va bene? Ok. 1, 2, 3, 4. Seekers in the sky are coming in the sight. They're shining through the rain. You're searching in my brain. People everywhere looking in the air. The UFO. I didn't understand. Maybe it's the air that everybody's crying. Is flying, we don't understand the entities again. The UFO. Hey, look out, it's coming. UFO, UFO, it's coming. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 22:31 minuti. Allora, con noi questa sera a Blu Radio Veneto, gli Old Rock City Orchestra. Ripresentiamo i nostri ragazzi per dovere. Cinzia Catalucci, tastiera e voce, bellissima, ve l'avevo detto prima, ma confermatissimo. Accompagnata dai bravissimi Giacomo Cocchiara al basso, Michele Capriola batteria e Raffaele Spanetta la chitarra. Sei limitata, Cinzia, adesso sei limitata. Beh, cosa vuoi? È una versione acustica. Acustica, quindi sei limitata essendo una versione acustica. Assolutamente. No, ma, no, comunque bravissima. E poi, sai, spesso e volentieri non è, come posso dire, il volume di voce che usi, è come la usi, che è una cosa molto diversa. Ma un volume particolare quello di Cinzia, non è il solito volume, è un timbro, è un timbro esattamente particolare che entra immediatamente in circolo, secondo me. Vabbè, insomma, è quello che giustamente ci vuole per il tipo di canzoni che fanno, appunto, no? Esattamente. E poi anche il batterista mi è piaciuto, ha fatto un sacco di stop, fermate e ripartenze, si è limitato anche lui, però si vede che voleva allargarsi, non poteva perché lo spazio è piccolo, caro batterista. Poi venire verso il microfono e dire qualcosina. Poi diciamo che dimmi. Adesso qui in radio è il kit da viaggio. Sì. Il kit di esattamente, il kit da viaggio. Però ci sono stati i colori anche in questo pezzo, nonostante questa versione acustica, i colori c'erano, si sentivano anche, chiaramente siamo in radio, però ci potevano immaginare i colori del pezzo, sicuramente. A parte il discorso degli UFO, che spesso e volentieri dà un certo senso alle cose. Nella psichedelia ci stanno benissimo, no? You seen the saucer dei Jefferson Airplane? Esattamente. No? Tanto per ricordare stare in tema, qualcosa, esattamente. Però devo dire che loro hanno questa grossa capacità, e secondo me, mano a mano che ascolteremo i brani che fanno, verrà fuori anche molto meglio e sarà molto più comprensibile. Loro hanno la capacità di essere estremamente duttili nel brano che fanno, quindi che lo facciano in acustico o che lo facciano poi nel disco, in effetti la cosa, come posso dire, non senti una differenza così abissale da dire giorno e notte. Sì, riescono sempre a metterci una loro particolare attenzione in quello che fanno. È una cosa perfetta, una particolare attenzione e facilità nell'eseguire il pezzo senza nessuna difficoltà. Dall'acustico all'elettrico c'è stata difficoltà, Raffaele, a inventare una sezione acustica stasera. Diciamo riarrangiare. Di arrangiare, possiamo dire questo. Beh, sicuramente un po' di difficoltà perché, sai, nel mondo del prog, comunque della psichedelia, utilizziamo un sacco di tastiere, un sacco di effetti. Stasera abbiamo poco spazio, Cinzia solo una piccola tastiera, chiaramente. Sì, sì. Però ecco, ha un altro sapore, un sapore forse più soft, diciamo, no? In qualche modo. Però è interessante anche questa proposta acustica, fondamentalmente. Era anche un po' una scommessa perché non è facile fare la musica con 4-5 tastiere e riarrangiarla, diciamo, in chiave acustica, con una sola, una chitarra acustica, insomma, molto essenziale. Una sfida vera e propria. È una sfida, sì. Comunque siamo soddisfatti, insomma, ecco, di questa. È la prima volta che suonate in acustico? Tendenzialmente oppure no? È già successo? In radio è la prima volta. È la prima volta. Però spesso ci esibiamo anche in locali magari non molto grandi, quindi ci ospitano in versione acustica e noi volentieri esibiamo il nostro repertorio. A proposito di esibizione, tu hai parlato, Vannuccio, della tournée, di questo andare oltre dall'Italia, andare verso l'estero. Giustamente sentiamo. Raffaele, cosa dici? Raffaele, sì, è stata la nostra prima esperienza, insomma, in Europa e siamo strafelici, contentissimi di aver potuto, diciamo, condividere la nostra musica anche all'estero, davanti a un pubblico diverso, ogni sera, no? Inglese. Che non è mica un pubblico semplice per prog. No, esatto. È anche pubblico... se prog è un po' riduttivo nel vostro campo. Sì. Dico prog per identificare la parte degli ascoltatori che vi stanno sentendo. Certo, no, beh, diciamo il pubblico inglese, come anche poi gli altri che abbiamo incontrato, siamo stati anche in Olanda, in Belgio, Francia. E non per ultimo, ultima ma non per ultimo, la Bulgaria. Insomma, la Bulgaria è successa una cosa importante. Sì, abbiamo partecipato a questo festival internazionale. Noi siamo stati selezionati come band italiana, unica band italiana. Insomma, siamo stati molto orgogliosi di poter portare un po' d'Italia anche in questo festival. Insomma, e pubblici esigenti, diciamo, e molto anche esperti di musica, insomma, anche culturalmente parlando, un ascoltatore preparato anche alla musica, diciamo, un pochino più difficile, no? Se vogliamo, certo. Non la musica commerciale che siamo abituati magari ad ascoltare sempre. E quindi siamo stati maggiormente contenti perché hanno apprezzato, le persone, insomma, ci hanno manifestato un apprezzamento e quindi la nostra missione è riuscita, insomma, no? Missione compiuta. Una mia curiosità, che set avete portato in Bulgaria? Allora, aereo permettendo, chiaramente, perché non è facile viaggiare con gli strumenti, abbiamo portato due piccoli sintetizzatori che ci hanno permesso comunque di realizzare una performance più non da che poco. Sì, esatto. E poi abbiamo portato più o meno il nostro setup abituale, insomma, chitarra elettrica, e basso e batteria, chiaramente l'abbiamo trovata in loco. In loco, è resa presente quella. Esatto, e niente, però è riuscito molto bene, insomma, siamo molto contenti. Beh, si sente, sì. Io ho sentito qua la versione acustica e già, come giustamente ha detto Vanuccio, ha sottolineato la duttilità della band. Non è mica semplice, è difficile essere duttili, cambiare dalla versione totalmente elettrica a una versione acustica. C'è sempre un po' di paura, di tensione, cosa dici? Sai, sì, beh, al di là della paura, della tensione, deve esserci anche quello che viene così banalmente chiamato talento, ma non perché siano loro o perché in qualche maniera facciano parte della mia etichetta, eccetera. Diamo l'etichetta che non abbiamo ancora citato. La MPN Records, distribuita dalla GT Music di Antonino Destra, che qui vicino, qui vicino a noi. Si nasconde, ma è sempre presente. Esatto. Sempre presente. E, no, il discorso è questo. Molti gruppi entrano in studio, fanno dei bellissimi album e dopo li senti magari dal vivo o in qualche maniera messi in condizioni un po' estreme di suonare, effettivamente non riescono più a rendere. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che o sono bravissimi quelli dello studio o in qualche maniera non sono qualcosa non torna. Qualcosa non torna. Esatto. Ecco. Quindi il banco di prova non è tanto avere lo stesso palco dei Pink Floyd per suonare quello che hai suonato in studio. Il banco di prova è quando sei messo come noi su 5 metri quadrati davanti a un pubblico come noi. Allora senti se la canzone funziona, se la musica funziona e se loro sono in grado di farla. E questo è positivo, assolutamente. Direi di sì. Stasera è positivo al 100%. Bene, benissimo. Adesso cosa sentiamo? Un altro pezzo dal vivo? Mi pare di sì. Va bene, sì. Va bene. Se loro sempre sono d'accordo. I musicisti sono pronti. Il batterista è pronto. Sempre, batterista è pronto. Michele, ti stai preparato per questa cosa? Va bene. Allora facciamo il primo brano, no? Che apre il disco. Che è molto bello, è molto, molto significativo. Sì, è un brano, sì, abbastanza significativo perché comunque. Dall'incipit, no? Esatto, dall'incipit. Esatto, e appunto si intitola Stand Up. Stand up, I'm the queen of your life. stand up, stand up. Stand up, I'm the queen of your life. Stand up, I can barely stand up. Stand up, I'm the queen of your life. Stand up, I can barely stand up. Stand up. Blu Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Giustamente Vanuccio mi faceva notare mentre il pezzo andava. Eravamo attenti al pezzo, assolutamente, però qualche vocina arrivava al mio orecchio. Perché non sentiamo la versione dal disco? Così facciamo un'idea. Perché, sai, è facile parlare essendo al di qua del microfono, no? Chi è al di là del computer o dove, sì, stanno ascoltando? Dove stanno ascoltando? Ecco, dico, sì, devo fidarmi della tua parola. E invece no, adesso vi facciamo sentire esattamente come stand up da disco, come l'avete appena sentito. Esattamente. Vediamo. Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua, l'abbiamo sentita. E tu, giustamente, Vannuccio, hai detto una cosa interessante mentre il pezzo andava. La Cinzia ha tirato un po'. Sì, è vero, è successo così. Anche Raffaele. Adesso Vannuccio me lo dici in diretta, quella gente deve cosa sentire. Devo dire? Sentire che hai leggermente modificato l'andamento del pezzo. Non è stato modificato. No, allora, dimmi come è stata veramente fatta una cosa. È stata semplicemente una delle poche correzioni che ho chiesto. Uno dei pochi interventi che ho chiesto, più che correzioni, interventi che avevo chiesto dalla prima versione che avevo sentito, era che la voce di Cinzia fosse, come si usa dire, portata più dentro alla musica. Loro l'avevano tirata fuori, non sto qua a dare tutti i tecnicismi della cosa, però secondo me era troppo fuori, troppo all'italiana, come si usa dire di solito, e ho chiesto che venisse riportata all'interno. Sì. secondo me ha dato un impasto sonoro completamente diverso al brano, altrimenti sarebbe stata anche, non voglio dire sguaiata, però leggermente fuori dalle righe. Così secondo me invece il brano è risultato, cioè, molto più filante. È rimasta dentro praticamente, all'insieme. È rimasta più... Raffaele ha suonato una chitarra elettrica con una distorsione molto particolare. Mm. Cosa succedeva? Se la voce si fosse voluto, per forza di cose, farla esternare troppo, sarebbe diventata stridente. Ho capito. Ecco. Abbiamo solo chiesto che fosse riportato un attimino nell'insieme delle cose. Tu, Raffaele, cosa hanno fatto? Sì, noi eravamo pienamente, insomma, d'accordo alla fin fine. Perché comunque sì, forse avevamo fatto un messaggio più all'italiana, come diceva Vannuccio, magari più all'inglese sarebbe stato più compatto, no? La canzone, anche le voci, portarle dentro, no? In qualche modo. Sì, dentro, vedi tra l'altro, quello che volevamo, tra virgolette, dimostrare ascoltandola prima in acustico e poi nella CD. Versione del CD. Il famoso tiraggio della canzone è rimasto. È vero, è che, perfettamente è, che è quello poi l'importante. Cioè, nella canzone tu puoi anche cambiare tutto il testo, d'accordo? Ma se non dai lo stesso senso, la stessa atmosfera, la stessa cosa, la canzone è perduta. Certo, siamo d'accordo, perfettamente d'accordo. E Cinzia non ha sbagliato nemmeno un momento, sia nella versione da studio sia nella versione qui. Dal vivo è una cosa, non è semplice, è difficile qualche volta. Dal vivo ci sono degli allargamenti, positivi vivo, o negativi. Dal vivo c'è un'oscillazione, esattamente la performance, che è un po' naturale. Insomma, cerchiamo di essere sempre concentrati anche sull'esecuzione, perché comunque l'emozione, ok, però senza una buona esecuzione l'emozione alla fine non arriva neanche, quindi insomma cerchiamo di fare un buon compromesso. Sì. Sei soddisfatto? No, lui non può parlare perché è lontano. Potrebbe avvicinarsi al microfono, potrebbe, però ha delle sensazioni così. Ecco, puoi avvicinarti al microfono, dire qualcosina anche a te. Grazie. Ecco. Benissimo. Beh, dobbiamo anche accontentarci. Sì, no? Esattamente. Ok, abbiamo sentito Stand Up, quindi il brano che apriva il disco, giustamente. Raffaele, doveva essere un pezzo che ci dava l'immagine della band, la nostra carta d'identità, sì. Tra virgolette, esatto. Ed è stata così. Sì, è un brano, ecco, che è frizzante, no? In qualche modo, e inizia subito a mettere in chiaro le cose. Comunque il disco è un disco rock fondamentalmente, con sfumature sicuramente progressive, ecco, e psichedeliche. Anche un po' di blues. E cioè, anche un po' di blues, un blues rock anche in altri brani, sì, in altri, insomma, brani viene fuori, insomma. Esattamente. No? Ma sai, la cosa interessante è che secondo me si sono tanto divertiti a farlo, sto disco. Quello sì. Cioè, si sente. Quindi, sai, quando la musica non diventa, tra virgolette, un obbligo, quando non ti senti in qualche maniera costretto a delle regole e ti diverti a farla, sicuramente esce. I brani, li sentiremo un po' alla volta, sono molto diversi uno dall'altro, pur mantenendo una costante che è il genere 70s, addirittura forse late 60s, no? Sì. fine 60. Anni 60 che loro ci hanno messo. Secondo me è stata un po' la loro carta vincente, quindi il poter usufruire di una serie di brani molto belli e fatti con il giusto criterio. Giusto. Quando è datato questo pezzo Stand Up? È stato scritto prima degli altri o è stato scritto con gli altri? Allora, questo brano è stato scritto forse prima degli altri, se non ricordo male, nel 2006. E poi però ha avuto, diciamo, una vita sofferta in qualche modo, perché è stato riarrangiato più e più volte, fino ad arrivare, chiaramente noi quattro ci siamo messi giù e abbiamo dato la definitiva, la versione, stesura. Esatto, definitiva. E sì, in qualche modo ha avuto modo di avere molte sfaccettature. Questa è la versione ufficiale e siamo contenti comunque di aver dato questa immagine, ecco, proprio da incipit, no? Da inizio disco, perché è un brano che apre in maniera, ecco, come dicevo prima, frizzante l'album. E i concerti li aprite con questo? No, i concerti di solito li apriamo, e grazie che mi hai chiesto questo, perché li apriamo con un tributo ai Circus 2000 di Silvania Aleotta. Circus 2000. È la prima volta che sento un tributo, cioè che citiamo i Circus 2000 in questa trasmissione, anche se abbiamo citati per altri versi, ma è un gruppo al quale ci ispiriamo, insomma, perché anche Silvana, a proposito di voci femminili, insomma, no? Certo. E quindi abbiamo pensato che erano i 40 anni dallo scioglimento della band, il 2013, abbiamo deciso di fare questo tributo e ultimamente, insomma, ecco, quest'anno abbiamo aperto i concerti con un tributo facendo un piccolo intro e seguito da Io la strega, brano, insomma, tra l'altro uno dei pochi brani, anzi forse l'unico se non sbaglio, che cantiamo in italiano, insomma, ecco. Sì. Però era doveroso secondo noi fare un omaggio a questa band che è italiana, cantava in inglese, insomma, in qualche modo era simile al nostro genere, simile alla nostra concezione anche della musica, insomma, perché c'è molta psichedelia, blues, jazz, insomma, e anche e quindi progressive, no? Perché comunque il progressive è anche un atteggiamento, esattamente, no? È l'atteggiamento, giustamente, che tu hai detto. Quindi sì, facciamo questo tributo e apriamo i concerti, insomma, con Io la strega dei Circus 2000. Benissimo. Beh, ma non possiamo sentirne un piccolo riff, qualcosina, dai. Proviamo? In acustico non lo so, è la prima volta. È un riarrangiamento proprio fatto così perché utilizziamo tante cose. Okay. Ok, proviamo, dai. È il bello della diretta anche questo, eh sì, no? Esatto. Soprattutto Sheimash da combo lo di lei ho yam fan sei tocnia Bravi, bravi, veramente bravi. Sono un po', ecco, improvvisato. È la prima volta in assoluto che ci sentiamo dal vivo un pezzo di Circus 2000. Sono molto orgogliosi e molto onorati per noi, io ed Alberto. Felicissimi di sentire Circus 2000 dal vivo questa sera. Adesso sentiamo anche Gilles, il nostro regista, che ringraziamo. Tu è la prima volta che senti gli Old Rock City Orchestra? Io è la prima volta che li sento e sono rimasto, l'ho detto da subito, affascinato dalla grandissima voce di Cinzia. Ovvio che poi c'è tutto il resto che esalta questa voce. Comunque veramente, veramente un bel gruppo, sicuramente un gruppo che farà parlare di sé. Speriamo. Speriamo, dai. Dobbiamo sottolineare una cosa, caro Vannuccio, che è difficile reinterpretare un pezzo di questa band, soprattutto questo pezzo, è molto complesso. Vocalmente è molto difficile, ci sei stata bravissima, indubbiamente. Sì, diciamo, ecco. E poi ci aiutiamo anche con vari effetti. Ma questa sera non c'hai gli effetti. No, questo è proprio crudo, nudo e crudo. È la versione falò, diciamo. La versione falò di Io e la strega. Poi speriamo. Strega. No, veramente molto bello, molto, molto interessante. Anche come ricerca, di cercare il Circus 2000 è una bella cosa. Sì, oltre a questo brano facciamo anche altri brani, sì, chiaramente. Sì. Però ecco, questo, diciamo, d'apertura fa molto effetto durante i concerti. Insomma. Esattamente. Beh, sai, una cosa interessante che non abbiamo ancora fatto e di questa cosa salvo solo Cinzia dal rivelarcelo. Prova a chiedere l'età dei ragazzi. Raffaele? Sì. Allora, io ho 27. Io ce l'ho 26. E questo era Michele. Ce l'ho. Giacomo? 25. Bene, non diciamo quella di Cinzia. Non mi faccio di questi problemi. E allora dice pure tu. 28. Allora, ecco. Tu pensa che questi stanno suonando la musica dei Circus 2000. Fai conto te. Cioè, non ti dico la mia età. Esatto. Ma siamo aperte. Non dico neanche la mia quando ascoltavamo i Circus 2000. Un'età mista. Dobbiamo essere proprio soddisfatti di ciò, ragazzi, di questa età che... Siccome noi ci siamo perduti quegli anni lì, insomma, ci siamo persi. Siete perduti bene, vi siete perduti bene. E quindi recuperiamo, no? In qualche modo. No, recuperano anche piuttosto bene. Ma assolutamente, proprio siamo pienamente soddisfatti. Adesso cosa facciamo? Sono le 22:57, quasi le 23. Allora, o chiediamo di chiediamo di suonare. Cosa volete fare? Suoniamo qualcosa d'altro, dai. Va così bene. Sorpassiamo le 23. Poi le 23 c'è qualcosa da fare più tardi. Perfetto, allora noi... proponiamo un altro brano, sempre tratto da Once Upon a Time. Questa volta eseguiamo il brano Another Flower. Esatto, Another Flower. Perfetto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Bellissimo, quasi un finale, quasi classico, caro Vannuccio, cosa dici? Stavolta siamo andati più su un orientamento più jazzato, no? Il jazz rock sempre degli anni 70, che erano così, così interessanti, no? Maggie Bell, tutte quelle cose. Esattamente, una cosa, non so se sei d'accordo, qui in qualche momento Cinzia ricordava un momento la voce di Jenny Sorrenti, qualche colorazione alla Jenny Sorrenti, a me ricordava qualcosina della Casa del Lago soprattutto. Sicuramente c'è qualche direi proprio di sì, ma sempre nel punto di vista così nel momento in cui fai un genere così come posso dire qualificato, ecco, è ovvio che viene fuori qualcosa che ci ricorda comunque le vocalità, cioè, dobbiamo dire che anche l'arrangiamento che è fatto in questo pezzo stasera in questo momento era interessante, ci sono dei cambi durante il pezzo, la costruzione del pezzo ha diversi cambi e questo batterista è proprio dà un certo input, ha diversi cambi, ha diverse stagioni, diversi percorsi in questo pezzo, l'ha fatto anche dal vivo qua in acustico e non è semplice, è un piuttosto complicato. Come l'avete pensato, Raffaele, per venire qua stasera e farlo così? Sì, devo sinceramente ringraziare il nostro batterista ancora una volta, quindi un altro complimento, perché l'arrangiamento alla batteria questa, diciamo in questa versione l'ha fatto lui, quindi noi ci siamo adattati suonando su questo ritmo che è totalmente diverso dalla versione studio, perché sì, la versione studio è più un rock dritto, no? Esattamente. E quindi è lì anche che è un po' ondulato, dritto. Un po' esatto, variato. È un po' sì, una cosa più prog, ecco, se più vogliamo, prog, no? Decisamente e poi, prog, e sì. Poi parte il jazz, diciamo, no? Lo swing, lo swingato. E sì, lui ha fatto questo arrangiamento di batterie, noi abbiamo completato il tutto, insomma, e anche questa versione è una versione interessante, nonostante decisamente interessante. Sia ecco, un arrangiamento un po' stravolto, diciamo, della canzone originale della versione studio. Possiamo dire, no, andiamo oltre, caro Vannuccio, ma possiamo dire che è una canzone nella canzone. Una canzone nella canzone. Loro hanno, sempre per restare, se vogliamo, nell'analisi di come loro portano avanti il loro discorso musicale, loro hanno quella caratteristica che non è, ripeto, così semplice e così normale al giorno d'oggi, dove l'importante è come riesce la canzone e non come ognuno di loro suona lo strumento. Ecco. È una cosa molto diversa. Certo, sì. Cioè, ognuno deve, se lo scopo di fondo è fare una bella canzone, tutti e quattro lavorano per fare una bella canzone. Dopo, che la solo venga bene, la solo venga male, sia più alto, sia più basso, eccetera. Questo è un altro discorso. La canzone deve essere lo scopo finale, che era quello che succedeva appunto negli anni 70, oppure in quel periodo in cui loro, in qualche maniera, loro si fanno riferimento. A proposito degli anni 70, non so se abbiamo al telefono adesso il secondo ospite. Sì, mi pare di sì, si sente qualcosina. Sentiamo qualcosa? Pronto? Mauro, ci senti? Mauro sta parlando, sta chiacchierando. Continuate, poi vediamo. Sì, bene. Adesso lo presentiamo, Vannuccio. Beh, presentiamolo comunque, dopo poi sentiremo la sua voce. Allora, noi abbiamo avuto modo di passare da Jenny Sorrenti, abbiamo avuto modo di citare Silvana Liotta dei... Una cosa, volevo anche salutarla perché probabilmente ci sta ascoltando. Ah, bene, quindi la ringraziamo e la salutiamo. Certamente. Magari se vuole fare un colpo di telefono la chiamiamo. Dice Alberto, ecco. Alberto Brisco, che è il nostro direttore artistico, che si occupa dei live, che ha scritto anche su Facebook. Beh, insomma, possiamo sentire anche lei magari dopo. Se ci riusciamo. Esattamente. Molto volentieri. Se ci dà il numero, Silvana, se ci dà il numero ti chiamiamo. Mauro, ci sei? Mauro, 1970 all'incirca la nascita della band, o giù di lì, la tua band. Sì, presso poco gli anni erano quelli, fine 79, primi 70. E chi è? Dimmi il titolo, cioè il nominativo vostro, come si chiamava la band? A quei tempi ci chiamavamo Joy. E poi? Anzi, originariamente viene ancora una prima embrionale situazione su Suburban Meditation. Era un trio, chitarra, basso, batteria. Poi dopo, insomma, per varie vicissitudini, la fusione è stata completa per diventare gruppo Joyce. Esattamente. Siete di Varese, siete lombardi voi praticamente. Allora, il lombardo ero a quel tempo e sono solo io. Gli altri hanno... Dimmi, la band come era formata. Erano ragazzi tedeschi. Sì. Vivevano da queste parti perché i genitori lavoravano al centro atomico a Ispra. Ah, e poi ci siamo conosciuti in ambienti musicali dell'epoca. Primo disco del 72 effettivamente con la band, è così Mauro? L'LP come analogo. Esattamente. Mentre il primo 45 del 71 come Joyce. Prodotto da Aldo Pagani mi pare nel 72. Aldo Pagani, Produzioni 28, Antonio Cagnola che erano i nostri produttori di allora. E poi una grande esibizione, Vanuccio mi può dare una mano, discorso del Festival Pop di Villa Panfili del 72. Villa Panfili è stata la presentazione del gruppo col nuovo nome Analogy. In quel momento però io, è il momento che mancavo, che sono andato a fare servizio militare, esattamente. A maggio usciva l'LP, aprile partivo. Purtroppo, cosa che capita, no, ecco. Non giro. Mauro, adesso non so se mi senti. Sì. Oh bene, adesso sono riusciti a sistemare anche il mio microfono. Però noi abbiamo chiamato te per lo stesso discorso di continuità, ovvero una voce femminile nel rock. Come mai anche gli Analogy scelsero questa via? La nostra è stata una storia che bisogna raccontare come è nata, per quello la voce femminile si è trovata dentro. Non è che è stata scelta o in qualche modo una ricerca per portare ad avercela, è proprio una fusione di varie situazioni che ha portato alla nascita di questo gruppo, dove la voce era una parte fondamentale, anche se originariamente magari si facevano canzonette, però nel momento che si andava a fare della musica nostra, la musica prendeva una parte come se fosse uno strumento della band. Che, insomma, è diventata poi anche la vostra caratteristica, in effetti. Infatti. Ecco. E non so se hai avuto modo di ascoltare i nostri ragazzi qua. Secondo te come sono? Ottimi, molto bravi. Soprattutto c'è l'idea del qualcosa che, nonostante che si sentano delle provenienze di suoni che riportano gli anni 70, però si sente finalmente qualcosa di nuovo e non la solita manfrina di questo prog, tante volte fin troppo esagerato e calcato. Ecco, allora vieni, siamo più o meno sullo stesso, come posso dire, livello di pensiero, Mauro, effettivamente. La musica è musica, quando si lascia e fluisce bene nelle orecchie, si può sentire volentieri, è bello, no? Assolutamente. Allora, però vogliamo parlare anche di te, perché Mauro Rattaggi non è solamente gli Analogy dei primi anni 70, gli Analogy ci sono ancora, giusto? Sì, poi le varie storie, la storia è veramente lunga. Noi non ci siamo mai persi di contatto completamente con Martin Jutta, che erano, diciamo, il chitarrista e la cantante del gruppo. Il fratello di Jutta purtroppo nel 90 è deceduto, però loro, pur trasferiti prima originariamente in Inghilterra, dove hanno poi formato un gruppo Airbound, e poi si sono anche separati come coppia, uno di Hamburgo, l'altro è tornato nel suo paese di origine a Saarbrücken, però bene o male o andava in vacanza uno, l'altro passavano di qui o io andavo su, bene o male non abbiamo mai perso i contatti. E poi nel 95 giù di lì avevo uno studio di registrazione qui a Ravenna ed è nata una prima idea di mettere insieme qualche cosa ancora. Però effettivamente, cioè, le problematiche erano le distanze, le tecnologie non permettevano come oggi di scambiarsi, diciamo così, dei file, no? Certo. E però c'era uno studio professionale, multitraccia, allora chi arrivava metteva giù un pezzo, ne metteva, ne incideva una parte e pian piano mi ha messo insieme qualcosa. Da lì a rimettere insieme la band, di acqua ne doveva passare veramente ancora tante. Anche se in fondo un pochino l'idea c'era, le problematiche erano veramente notevoli, finché poi attraverso certo Claudio Fucci, che probabilmente conoscerete abbastanza bene, immagino. Certo. Dice, ma perché non li mettiamo insieme qualcosa? Non avete vecchi nastri, produciamo una cosa, forchiamo. È la ricerca di vecchie registrazioni, di vecchi live, ci ha portato ad andare a scavare, andare a ravanare nelle varie cose per non trovare qualche cosa con il flautista Rocco Abate, che aveva sostituito il tastierista quando ci ha lasciato nel 73. E questo ci ha messo in condizione di dire, ma per non perdere proprio completamente qualche cosa, rifacciamo un pezzo in studio. E di lì abbiamo rinciso una piccola parte di quello che si faceva nel 73, e a quel punto le donne, perché non l'ho presentato anche con un piccolo concerto, lì al Bloom nel 2010, quando l'abbiamo presentato, quando è uscito il triplo CD, esatto. Two Works, è saltata fuori la scintilla che ci hanno chiamato. Dovevamo trovare il modo di tornare a suonare. Insomma, in qualche modo è una scintilla che bene o male è difficile si spenga completamente, giusto? Anzi, la famosa brace che cova sotto la cenere, giusto Mauro? Allora, proprio per questo e anche per ringraziarti ovviamente del tuo intervento, perché è sempre piacevole ascoltare la voce di chi tra virgolette c'era e continua ad esserci, soprattutto con il proprio talento musicale. Noi dedichiamo a te, che conoscerai molto bene, e dedichiamo anche ai ragazzi della Old Rock City Orchestra un brano che è God's Own Land, che noi ascoltiamo in una versione dal vivo. Previsto e corretto in versione attuale. Esatto, anche perché tra l'altro, come avrai sentito, anche ai ragazzi facciamo fare le cose dal vivo, quindi a voi che dovrete tra virgolette in qualche maniera essere dei professionisti della musica, tanto più chiediamo questa versione dal vivo. Se vuoi scusami, sì, prego. Certo che siamo tutto, ma una delle cose anche specifiche del nostro suono era proprio che dal vivo live era lo stesso che dal disco, non cambiava niente, no? Tolto magari qualche piccola sovraincisione che ovviamente ti potevi permettere in studio, ma il suono era quello ed è sempre quello. Esattamente quello che anche noi abbiamo cercato di riportare con i nostri ragazzi. Allora io ti ringrazio personalmente intanto di questo intervento, se dopo vuoi salutare anche tu gli Old Rock City Orchestra sarà veramente un piacere, Mauro, grazie. Sicuramente sì, come no, anzi, e fagli tantissimi auguri. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Era live anche questo, dobbiamo sottolinearlo, e si sentiva gli umori, i sapori molto orientali alla fine. Erisoniani, possiamo dire questo. Posso buttarmi, cosa dici, Raffaele? Sì, concordo. Concordi, Vannuccio? Io sempre. Concordi sempre. Ci sono sempre. Benissimo, è un bel pezzo veramente, per dare un quadro, un'immagine, un colore di quel tempo. Adesso, per dare un colore del nostro tempo, ci fermiamo un secondo, facciamo riposare i ragazzi, poi ci sta un rush finale notevolissimo. Sentiamo un pezzo dal disco, dal CD. Che traccia abbiamo scelto, ti ricordi, Raffaele? Allora, l'ultima traccia, la traccia che chiude l'album, è una ballad e si intitola Swan of the Lake. Di cui tra l'altro c'è anche il video. Esattamente. E che significa? Il cigno del lago. E noi abbiamo scelto questa traccia quando abbiamo presentato il disco all'epoca, quindi un anno fa circa. L'abbiamo riproposto adesso nel nostro programma. Tutti i giorni va in onda, una certa ora. Benissimo. Noi della redazione, quindi Alberto qui presente, abbiamo proprio rilanciato il pezzo perché ci piace e quello è giusto che sia così. Okay. Grazie. Thank you. seen passing by tell me I'll never die. Radio Veneto, come non l'hai mai sentito. Blu Radio Veneto, SMS 346 2320 033. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Caro Raffaele, questo è un pezzo bellissimo che ci ha entusiasmato noi della redazione, ci ha entusiasmato molto, abbiamo riproposto un sacco di volte, che è molto molto bello tutto, dall'inizio alla fine. È una ballad completa, che prende e avvolge, secondo me. Sì, grazie innanzitutto, e abbiamo avuto il piacere di registrarlo insieme a un quartetto d'archi, in cui suona anche il fratello di Giacomo, il nostro bassista, Lorenz, che salutiamo, e abbiamo avuto questo piacere. Chiaramente l'arrangiamento per violino, violini, viola e violoncello ha arricchito chiaramente la ballad, dando appunto questo sapore un po' folk e classico allo stesso tempo, insomma. Sì, folk e classico allo stesso tempo. Perfetto. Perfetto. Mi hanno comunicato che c'è al telefono una vocalist, una grande vocalist. Da chi la facciamo salutare? Da loro. Da loro, assolutamente. Pronto? Pronto, Silvana, ciao. Ciao, Cinzia. Che piacere sapere che sei all'ascolto. Ci ha un po' emozionato questa cosa, però ci ha anche fatto molto piacere, insomma, grazie. Mi avete emozionato voi, tu mi hai emozionata con la tua voce. Oh. E con questo ricordo del Circus 2000, ma tanto tu lo sai che io vi seguo già da un po'. Sì, eh? Sì. Beh, lasciamo che sia Cinzia allora a dirci a dire chi stiamo parlando. Esattamente, a presentarci questo personaggio. Con una vocalist storica, con una voce splendida, è la cantante dei Circus 2000, Silvana Aliotta. Buonasera a tutti. Buonasera Silvana. Buonasera. Insomma, abbiamo avuto una bellissima carrellata di ospiti, Silvana, questa sera, e ci fa molto piacere avere anche te. I ragazzi ti hanno fatto una citazione strepitosa, perché... Guarda, un'emozione immensa è stata per me. Ma poi mi è piaciuta da morire. Grazie, bravi. Insomma, hanno, come posso dire, hanno sicuramente saputo riprendere un vostro brano, un vostro cavallo di battaglia, in una maniera molto molto personalizzata. Sì, ma come ho già detto, io insomma l'ho detto a loro lo sanno, e ho piacere anche di dirlo, visto che sono in radio, e ci tengo a dirlo. Trovo che questo gruppo sia particolarmente magico, non so come dire, ha quella genialità che ci vuole in un gruppo, ha la preparazione, perché sono preparatissimi, hanno l'umiltà che ci vuole, anche perché mi sembra anche giusto che ci sia quella, perché quella serve per andare avanti. E poi devo anche dire che i brani sono uno più bello dell'altro, e la voce di Cinzia è splendida, la trovo veramente personalissima e non assomiglia a nessuno. Non fate come fanno con me, che dicono sempre che assomiglio alla cantante dei Jefferson perché sono una donna. Cioè, per carità di Dio, figuriamoci se sono contenta, però sono anche io, ecco. No, assolutamente, anzi, forse è meglio mantenere una certa distanza, vero Silvana? No, ognuno ha la propria personalità, no? Perché poi è chiaro che una voce può assomigliare a un'altra come timbrica, no? Esatto. Però la verità è che io non ascoltavo i Jefferson, è stato lì. È quello che non capisco, no, più delle volte, però. Beh, sai che il mondo è piccolo a un certo punto. Infatti, le voci si possono anche, certamente, poi sai, le voci si assomigliano. E poi Cinzia ha avuto una grande personalità a interpretare un pezzo simile, Silvana. Guarda, è stata bravissima, ma insomma, veramente mi hanno emozionato, mi avete emozionato tutti, ragazzi. Grazie per questo, per questo pensiero. Ecco, allora noi ringraziamo ovviamente te Silvana, perché è sempre un piacere, come dicevo prima, è sempre un piacere avere qualcuno che c'era all'epoca, giusto? E che, in qualche maniera ci sta testimoniando anche che una certa eredità non è andata perduta. Eh beh, noi diciamo che io ho cominciato col Circus 2000 nel 69, quindi il primo disco che noi abbiamo fatto, il primo LP, è del 70, quindi è storia vecchia. È una splendida storia. E Escape from a Box di quand'è? An Escape from a Box del 72. Era il secondo, giusto? Sì, è il secondo. Ecco. Per cui, insomma, avete avuto comunque una vostra sicura collocazione. Splendida collocazione. Eh sì, grazie. È stata una bella lotta, però è stato bellissimo, bellissimo, perché abbiamo avuto una grande forza, grande volontà, e che abbiamo sempre creduto in quello che facevamo. Abbiamo sempre cercato di migliorarci, e questo è quello che io noto in questi ragazzi. Ecco perché mi piace. E c'è allora, sottofondo, guarda, il pezzo. Guarda, allora, io dopo fuori onda dirò qualcos'altro. Non lo dico adesso al microfono. Però volevo da te una piccola testimonianza, Silvana. Sì. Come sono cambiati i discografici? Perché questa è una cosa che interessa a me a questo punto. Tantissimo. Sono cambiati tantissimo. Una volta c'erano i discografici, erano dei talent scouts. In pratica loro andavano in giro a cercare i talenti. Oggi sono i talenti che devono prepararsi pure il disco, perché non basta darsi da fare, studiare, imparare, cioè, si devono anche incidere il disco, pagarselo e portarlo alle discografiche, sperando sempre. Mi dispiace, ma io veramente questa cosa non la capisco tanto, e neanche mi piace, sperando che qualcuno li ascolti. Beh, io devo dire che li ascolto tutti. Tutto quello che mi viene mandato lo ascolto tutto. Poi sai, c'è sempre la mosca bianca. Però la verità è che in linea generale i ragazzi oggi trovano veramente duro. Beh, sai, è dura anche proprio a livello comunque di farsi conoscere. E quello che magari una volta riusciva più facile, adesso è veramente complicato, perché il mondo musicale è sterminato. Si aumentano naturalmente, ci sono sempre più gruppi, più cantanti, è logico, però sai che vuoi, è così. Però la verità è che il talent scout sarebbe un bel personaggio da riportare in auge. Servirebbe anche molto, anche per filtrare molto di più tutto quello che viene immesso in questo mercato musicale, no? Bravo, esatto, proprio così. Benissimo Silvana, allora io ti ringrazio personalmente, è stato veramente un piacere. Adesso ti ripasso i ragazzi per i saluti. Silvana, ciao, sono Raffaele. Ciao Raffaele. Ti volevamo ringraziare perché questa è stata una bellissima sorpresa. Guarda, e siamo emozionatissimi. Grazie e a voi. Grazie veramente a voi. Una grande sorpresa. Noi, è inutile dirlo che per noi, ecco, i Circus 2000 sono un punto di riferimento, lo sono stato e lo sono tuttora, insomma, anche nel nostro percorso musicale, a livello anche di composizione, insomma, ci ispiriamo moltissimo a questa musica d'avanguardia, no? Una volta si chiamava così, no? Non avete sentito il quarto LP? Il terzo LP era già pronto, pensa. Abbiamo sentito qualche traccia nascosta, diciamo qualche traccia inedita, no? Però ci sono dei brani che seguiamo sempre, tipo Must Walk Forever, oppure Our Father, Need, che ci piace tantissimo. Need, io l'adoro. E quindi ecco, noi... con quello abbiamo vinto il Festival d'Avanguardia. Esatto. Quindi grazie a nome di tutta la band. Va bene ragazzi, io vi auguro tutto il bene possibile perché ve lo meritate. Un bacione a tutti e grazie Blu Radio. Veneto, sì, grazie. Grazie Silvana. Grazie. Ciao, grazie. Buona serata. Buona serata a te. È una bella emozione, indubbiamente una grande emozione. Sì. Sai, quando hai comunque il... se vuoi, non, la, l'approvazione. Sì, mettiamo, mettiamola così, l'approvazione. Cioè, sottofondo ci si sente qualcosa che ben conosciamo. Sentiamo, assolutamente. L'approvazione di personaggi di questo calibro che hanno vissuto la stagione anche discografica, non solo musicale, anche discografica, in maniera completamente diversa da quella che hanno sicuramente vissuto loro, hanno vissuto o stanno vivendo tantissimi gruppi, e ti viene da domandarti cosa sta succedendo. Sì. Infatti Silvana giustamente ha detto una cosa molto molto molto molto molto giusta, secondo me. Per esempio loro hanno un'umiltà che difficilmente ho trovato. In effetti molto spesso trovi dei gruppi che vengono con come posso dire, con un piano già pronto. Non esistono piani in musica, no. Esiste solamente un passo dopo l'altro. Come adesso è cambiato completamente il modo di farla, come è cambiato completamente il modo di viverla, come è completamente cambiato anche il modo di venderla la musica e di diffonderla. Quindi non c'è più il primo della classe che arriva a spiegarti come si fanno le cose. Si fa tutto insieme, e con loro questo è sempre successo fin dall'inizio, ma possono dirtelo loro con più facilità. Sì, questo è verissimo, il discorso che ha fatto Vanuccio è reale. Un'altra cosa che ho letto nella biografia, l'abbiamo già citato un anno e mezzo fa, però lo possiamo citare anche adesso, chiaramente, il discorso del prog, del libro del prog. Raffaele. Sì, diciamo Andrea Parentin ci ha inserito in questa... in questa summa del prog contemporaneo. Sì, del prog contemporaneo, e non perché è un libro, diciamo, che raccoglie un po' tutta la storia del progressive italiano. Certo. E quindi un tomo di un certo peso. Esatto, e quindi per noi un onore essere citati, insomma, in quello che è la storia del progressive italiano, insomma. E questo collegamento ideale con il Circus 2000 continua. Sì. Sicuramente il Circus 2000 hanno un posto importantissimo nel prog italiano, e voi cercate di avere il vostro posto, lentamente cercate di farvi largo, ma giustamente facendo le cose con passione, con volontà, esatto, con voglia di fare. Beh, come diceva prima Vannuccio, noi non abbiamo piani, no. Cioè, per noi la musica in primis è una passione, anche un'esigenza, se vogliamo. Ecco, insomma, non è detto una cosa giusta, è un'esigenza. Sì, anche. Abbiamo queste emozioni, chiamiamole così, che vogliamo tradurre in musica, e quando riusciamo a trasmettere queste emozioni siamo molto contenti, ma soprattutto perché è come se esprimessimo una parte di noi a tutti, insomma. Ma ce le date, ecco, anche a noi le emozioni in musica? Stasera chiaramente siamo stati tutti emozionati a sentire certe frasi sonore dal vivo, cari ascoltatori, è tutto dal vivo, non c'è niente di giocato in studio, è tutto assolutamente dal vivo, alle 23:40 e qualche secondo. Adesso cosa facciamo in scaletta? Volete fare un altro pezzo, sentire un altro pezzo da CD, o sentiamo un altro pezzo dal vivo? Vogliamo fare un pezzo dal vivo? Dal vivo. Perfetto, allora facciamo un altro brano sempre del Once Upon a Time, che è il disco loro, chiaramente. Esatto, e facciamo un brano che si intitola Black Hand in the Sky. Perfetto. Breaking with the sky, oh. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua, caro Vannuccio. Sono stato veramente trasportato dal basso di Giacomo. Giacomo dava proprio l'input con il basso, proprio portava la band. Cosa pensi? Ah, vedi, era un po' quello che si diceva prima. Nel momento in cui non si pensa allo strumento, ma si pensa a come va a finire, come deve essere la canzone. In questo caso loro hanno fatto una scelta molto precisa, che sia il basso a condurre, basso e voce. In effetti erano loro due gli strumenti di fondo che hanno tenuto questa canzone. Non c'è stata nessuna prevaricazione da nessuna parte. Il basso ha funzionato benissimo come strumento, in questo caso ritmico e anche melodico. Tutto qua. Esattamente, ha detto giustamente la voce. Cinzia aveva uno strumento, assolutamente. Cinzia ha una voce, è uno strumento, e il basso, il tamburello anche. Sì. C'era anche il tamburello che dava una colorazione. Esattamente. E tutto fa parte del vivo, caro Raffaele. Sì, anche questo è un brano riarrangiato in chiave acustica, totalmente diverso, diciamo, nell'arrangiamento rispetto all'originale. Però, ecco, come diceva Vannuccio, l'intenzione poi è rimasta, no? Certo. Ma sono stato molto soddisfatto perché finalmente Giacomo è diventato il protagonista. È diventato il protagonista. Indubbiamente. Allora, sono le 23:45, abbiamo circa un quarto d'ora. So che avete un ultimo pezzo, un'ultima chicca da regalarci. Sì, abbiamo un'ultima chicca e dopo svegliamo più tardi. Va bene. Adesso sentiamo un altro pezzo da disco, cosa perfetto, dite? Perfetto. Che traccia hai scelto, Raffaele? Abbiamo scelto This is the Last Day. Ecco. Che è la traccia? È la traccia numero 5. Numero 5, adesso la senti. Dimmi. No, volevo anche ricordare, visto che dobbiamo anche comunque diffondere questo disco, potete trovarlo sia sul sito dei ragazzi, che è www.oldrockcityorchestra.com, oppure direttamente al nostro sito, che è www.gtmusic.it. Dopo lo riepiloghiamo alla fine, esatto. Assolutamente. Lo sentiamo adesso, ok? This is the last day. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, caro Gilles, adesso facciamo messaggi importanti per recepire il disco. Cominciamo un'altra volta dal titolo del disco. Vai, Cinzi. Il disco si intitola Once Upon a Time. L'etichetta, adesso passiamo a Vannuccio. Vabbè, MPN Records, distribuita da GT Music Distribution di Antonino Destra. Lasciamo a Raffaele adesso invece parlare del loro sito, delle loro cose. Sì, allora noi abbiamo il sito che è www.oldrockcityorchestra.com. Poi abbiamo, come tutti ormai, Facebook, Twitter, insomma le pagine, i social network. E niente, volevamo citare in particolare le persone che hanno collaborato al disco, giovani musicisti che hanno collaborato al disco, come Chiara Dagoni al flauto su Tonight With You, il quartetto Ascanio sulla ballad Swan of the Lake, e membro del quartetto Ascanio, il fratello di Giacomo, Lorenz Cocchiara, al violino, che ha impreziosito anche il finale di Another Flower. Citiamo anche la copertina, molto bella, Cinzia. Sì, la copertina è stata tratta da una foto di Serena Freddano, che è una giovane fotografa, anche questa originaria di Orvieto, quindi insomma abbiamo un po'... Fatto un po' di, esatto. Di gruppo avete fatto. Esatto, e poi vorremmo ringraziare anche il fonico, nonché amico, che ci ha seguito durante tutta la realizzazione di questo album, che è appunto Franco Pellicani, che quindi lo ringraziamo. Dal vivo. E poi dicevi, Raffaele, siete un momento fermi perché avete qualche idea per un nuovo disco. Sì, siamo tornati da poco dalla Bulgaria e quindi ci prendiamo tra virgolette un periodo di pausa, ma che pausa non è, perché stiamo lavorando, diciamo, a un secondo album, chiamiamolo così, un secondo lavoro che poi chissà se diventerà un album, insomma. Comunque abbiamo dei nuovi brani, stiamo arrangiando il tutto. Speriamo che abbiano luce e vita, diciamo, presto, insomma, ecco, che vengano alla luce il prima possibile. Insomma, stiamo lavorando, siamo in studio e in sala prove a arrangiare, insomma. Benissimo, 23:54, abbiamo qualche minuto. Caro Vannuccio, io devo ringraziarti, hai portato una band di grande valore, ci ha appassionato tutti qua dentro in studio, in primis il nostro direttore artistico, chiaramente. Importante. È importante, è fondamentale. Caro Vannuccio, c'è poco da fare. Quando uno suona con passione, puoi essere duttile finché vuoi, ma suona con passione, con forza, con volontà, le cose si sistemano tutte in ogni caso. Beh, diciamo che è sicuramente uno dei fondamentali per fare musica. Dopodiché bisogna avere comunque il talento, come diceva anche la bravissima Silvana Liotta, bisogna avere l'umiltà di fare le cose, bisogna avere anche, come diceva Jenny Sorrenti, invece bisogna avere anche la tenacia per ottenere qualcosa. Non è facile in questo mondo, nel mondo attuale, musicale soprattutto. Io mi sono molto rispecchiato nel lavoro che hanno fatto Raffaele, Cinzia, Michele e Giacomo, secondo me hanno fatto un gran lavoro. Ascolteremo il prossimo, vediamo cosa succede. Volevo anche ricordare il sito invece proprio della distribuzione del disco, che è www.gtmusic.it, e comunque insomma girate anche su Facebook, su Twitter, dappertutto, insomma ci trovate un po' dappertutto. Grazie anche a Gil, grande ritorno di Gil. Grazie Maurizio, volevo ricordare anche, se volete vedere qualche immagine di già, andate su Facebook nel profilo di Blu Radio Veneto Rock e vedete gli Old Rock City Orchestra. Benissimo, adesso un'altra sorpresa finale, caro Raffaele. Sì, visto che abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere Silvana Liotta in ascolto, facciamo una cover dei Circus 2000, ringraziando Silvana e tutti voi per averci dato l'opportunità e la possibilità di passare due ore di divertimento in compagnia della musica e di persone splendide, insomma, che ringraziamo penso a nome di tutta la band. Assolutamente, no? Sì. Ecco. Grazie a voi. Ritorniamo in studio, poi Maurizio. No, no, ci salutiamo così. Allora mi permettete di salutarli uno a uno questi indubbiamente, ragazzi, questi Old Rock City Orchestra. Prima di tutto Cinzia Cartalucci, veramente una voce straordinaria, non lo dico io, l'hanno detto in tanti. Tastiere e voce, grazie quindi Cinzia. Grazie, grazie a voi. E poi ben supportata sicuramente, che dà valore a questa voce, abbiamo Giacomo Cocchiara al basso. Grazie, grazie. Mike Harris della situazione. Ciao Giacomo. Ciao, poi abbiamo Michele Capriola alla batteria. Grazie mille. E poi Raffaele Spanetta alla chitarra, ha detto Max Biagi, lo dico io questa sera. Bene. Mi ricordo, so te l'ha già detto qualcuno. No, è la prima volta, ma va bene. Con un casco e un pizzetto ti vedrai proprio uguale a Max Biagi. Va bene, grazie mille. Grazie mille ragazzi e buon proseguimento. Buonanotte a tutti, allora con una cover dei Circus 2000. Esatto, Must Walk Forever. Esattamente. Nothing about me except the sound that it can't see. Tears on me openly, watching me lonely. The voice you wait for me patiently. My head spins round and then I feel lost in a dream. But somehow I try and slowly wake from the dream. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live.